Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto da parte di Gesi e di Antonio. Come avrete capito, questa sera la nostra amica è latitante, per un attimo, e quindi tocca a me dare un cordiale benvenuto a voi, naturalmente a tutti gli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download del podcast, come dicono, dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo con noi l'editore Luigi Crivellaro, che ci parlerà di un argomento scomodo ma importante, con il quale dobbiamo tutti fare i conti. Ma prima di incontrare l'ospite andiamo con il primo brano di una colonna sonora che per questa occasione non sarà monotematica, poi capirete perché. Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia delle valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata, l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia con gli occhi aperti e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre, l'Italia con gli occhi aperti e la notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. Ed eccoci in studio con il nostro ospite Luigi Crivellaro, editore, che salutiamo e che ringraziamo per essere intervenuto. Caro Antonio, grazie a te, mi fa piacere di essere tornato qui. Sono già stato qui un paio di volte, mi fa molto piacere salutare ascoltatrici e ascoltatori di questa sera. Sono qui in veste di editore, e l'editore lo faccio dal 2013. Ho fondato una casa editrice che si chiama Biblioteca dei Leoni, che ha finora pubblicato un centinaio di titoli in varie collane. Tra le nostre collane principali sono quelle di narrativa, di cui parliamo oggi, e di storia, saggistica e libri per ragazzi e bambini. Bene, usciamo subito dal generico e parliamo del motivo per cui siamo qui stasera. Si tratta di un romanzo che abbiamo pubblicato pochi mesi fa, dal titolo Quaderni di un terrorista. Già il titolo credo che vi dica che si tratta di una materia inquietante. Si parla moltissimo di terrorismo anche ai tempi nostri. Questo libro riguarda un terrorismo di qualche decennio fa. Chi è in età ricorderà benissimo gli anni che abbiamo trascorso qui in Italia da fine anni 60 a inizio anni 90. Sono i cosiddetti anni di piombo. Questo romanzo di un autore che si chiama Giano Corte Moschin ripercorre quell'epoca e ci consente di riviverla. Ricorderete, nel 68 iniziarono i movimenti giovanili in tutta Europa, a partire da Parigi, poi si diffusero in Italia, in Germania, in tutte le altre nazioni. Questi movimenti sfociarono poi nel 69 in vere e proprie battaglie nelle piazze e nelle strade, e dai chiamiamoli movimenti di destra e di sinistra extraparlamentare, mano a mano nacquero, filiarono delle organizzazioni terroristiche, dei movimenti di combattimento. A destra sorsero dei gruppi che si dedicarono alla cosiddetta strategia delle bombe, della tensione. A sinistra sorsero degli altri gruppi che si dedicarono invece al terrorismo mirato a persone e a entità simboliche, quindi gambizzazioni, delitti mirati verso giornalisti, sindacalisti, dirigenti industriali, politici. Ricorderete tutti l'acme di questa strategia che arrivò nel 78 con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Ma ricorderete anche l'acme dell'altra strategia, quella delle bombe, che arrivò nell'80, nell'agosto dell'80, con la strage di Bologna, che era stata preceduta da altre stragi, a cominciare da quella ormai celebre, la madre di tutte le stragi, di Piazza Fontana, del 12 dicembre del 69. Direi che in due parole questo romanzo presenta un quadro inquietante. Come ha detto Antonio, è una materia scomoda, ma credo che sia giusto esaminarla lungo le pagine di questo romanzo, che ci porta lungo questi eventi. Perché? Perché è scritto in forma di diario da una persona che, a quanto pare, quanto dice, è stata una protagonista di questi eventi. Inizialmente sedotta, tra virgolette, dalle teorie dei gruppi di sinistra, poi invece si è, diciamo così, accasata questa persona in un gruppo di destra. In realtà è rimasto un battitore libero questo personaggio, però non si è mai legato alla collaborazione in parti più o meno importanti, in ruoli più o meno importanti, con questa organizzazione che, a quanto pare, si dedicava ad organizzare attentati di quel genere. Direi che possiamo iniziare facendo una brevissima introduzione del contenuto del romanzo in questo modo. Ho già detto che si tratta di una narrazione in forma di diario che inizia dopo un prologo che è datato a 1964, in realtà inizia nel 1968, giusto nel giorno in cui i carri armati sovietici entrano a Praga. Di tanto in tanto, in questa narrazione, si intromettono delle note manoscritte, cosiddette note manoscritte, inserite nel testo da una donna che ha ricevuto inopinatamente il manoscritto di questo diario da chi l'ha scritto e che glielo presenta, glielo manda in forma, diciamo così, minacciosa, come fosse un ordigno. Leggiamo questo episodio con la prima lettura che inizia a pagina 26. Nota manoscritta numero 1. Mio caro, mi è impossibile prevedere quanto ti sarà consentito leggere questo dattilo scritto, ma voglio pensare, malgrado tutto, che sarà presto, molto presto. E voglio che tu trovi e legga allora anche questa mia nota e le altre che ho sentito la necessità di aggiungere qua e là, per meglio capire insieme a te con che cosa abbiamo a che fare. Stamattina, durante la mia solita ginnastica, ascoltavo come sempre su Rai 3 le telefonate degli ascoltatori dopo la rassegna stampa. Sento la chiamata di un tizio che dice: oggi è il 12 dicembre del 98. Mi permetto di ricordare agli italiani, cui ancora interessa, che sono giusto 29 anni da Piazza Fontana. Colpevoli? Zero. Propongo che si conceda ancora un anno e che, se allo scadere del 30° anniversario saremo ancora colpevoli zero, si dichiari una sanatoria, nella prospettiva che la vanità criminale, unita alla garanzia dell'impunità, spinga gli autori a manifestarsi. Credo fermamente che sia questa l'unica e l'ultima possibilità che ci rimane per sapere. Ma Caluso, conduttore della settimana, senatore, come sai, incline alle eresie, concorda con la singolare proposta. Ovviamente si affretta a specificare ad esclusivo vantaggio della chiarezza storica. Non passano due ore che un corriere mi recapita una grossa busta. Apro e ne esce un fascicolo di fogli dattiloscritti accompagnato da una lettera non firmata di cui ti riporto il testo integrale. Il giorno 3 settembre scorso, non più dunque di 100 giorni fa, mi sono, come dire, improvvisamente riscosso dal lungo sonno in cui ero sprofondato dopo la tua inopinata scomparsa, nella luce troppo intensa del 27 luglio dell'anno 1993. Sai come accadono certe cose? Non te ne può importare di meno per anni e anni, e poi, per un non nulla, come ad esempio lo slam di una porta che sbatte, tutto si rimette in moto. Slam ha fatto la porta mentre la grassona usciva di casa. Slam ha ripetuto la mia mente e mi ha sbattuto in faccia al passato. Ieri ho visto un tale che tirava su dal fiume un bel pescione lucente. Era evidente che quello, il pesce, non se l'aspettava per niente e ancor meno era d'accordo, e le tentava tutte per ributtarsi nella sua acqua, ma l'amo ormai l'aveva agganciato. Ecco, mi son detto, prima che qualche amo inatteso mi sorprenda, voglio buttar fuori tutto il veleno, voglio spremermi, come ho visto fare una volta un contadino morso da un serpente, che un sangue rapido e sicuro non cessava di traboccare, e dopo semplicemente si sciacquò con acqua di fonte e tornò a rivoltare il fieno. Così ho scovato fuori da una scatola di cartone, sigillata e confinata da anni in cantina, le mie agendine, i miei quadernucci a quadretti, li ricordi? E con loro mi sono rimesso in confidenza e insieme abbiamo cominciato a lavorare. Duramente ho lavorato, data l'imperiosa necessità che mi comandava, e infine ecco pronto questo dono che dedico alla tua coscienza. Ho detto dono, e avrei dovuto dire invece ordigno, tale infatti, pericoloso e minaccioso, intendo che esso sia. Ecco, avete sentito questo episodio in cui una donna riceve questo misterioso manoscritto. Dal diario si desume inizialmente che si tratta della vita di un giovane di provincia, che potrebbe essere una vita magari monotona e normale come tutti gli altri, ma Lorenzo, il protagonista, in realtà è mosso, è agitato da un desiderio imperioso di cambiare il mondo. Non è soddisfatto di quello che lo circonda. E questo suo desiderio gli fa incrociare ambienti in cui si teorizza, in quel momento, fine anni 60, l'uso della violenza per modificare la società. Lui resta un cane sciolto rispetto ai vari gruppi, alle varie ideologie, però ecco che in ogni caso si incrocia inizialmente con un gruppo di sinistra del quale entra a fare parte attiva. E qui sentiamo il resoconto di quella che fu l'ultima riunione del gruppo di sinistra di cui Lorenzo era socio. Il fatto di Mario. In breve, perché non ero presente come nessun altro d'altronde, la riunione, ero tornato a frequentarle anche se con molti distinguo inespressi, si era tenuta di sabato nell'appartamento di Fiorenza ed era durata fino quasi a mezzanotte. Si era svolta una discussione accanita, ma anche vischiosa, quasi pedante, tra i fautori del confronto dialettico e coloro che sostenevano la necessità di ricorrere ai modi della lotta violenta, in ciò riprendendo con ritardo, come in un cinema di secondo ordine, un tema già ampiamente dibattuto dai gruppi delle metropoli e forse in modo già conclusivo. Si disputava, insomma, se fosse giusto o meno mettersi a fare i bombaroli per il bene della causa. Tra i sostenitori più radicali del sì mi ero intruppato anch'io per una semplice ragione di coerenza. Se il nostro obiettivo era la rivoluzione, avevo argomentato, sarebbe stata una inaudita follia per il rivoluzionario scegliere, se non occasionalmente per necessità, la tattica suicida di dialogare e patteggiare in anticipo col potenziale rivoluzionato. E non avevo sprecato tempo a scusarmi per la discutibile invenzione verbale. Dentro di me però sapevo che non una cultura rivoluzionaria storica ispirava le mie parole, ma un distruttivo desiderio di rompere e rovesciare la realtà, un ardore che da sempre mi pareva di nutrire, ma che s'era molto rinfocolato nelle ultime settimane ed in particolare nelle ultime ore. M'aveva dato manforte un ragazzo di Marghera, una recluta alquanto recente. Quando siamo usciti mi ha detto: meglio andare a Mestre la prossima settimana. A Mestre mi ero già fatto portare una volta per assaggiare il terreno. In quel gruppo la grande maggioranza era per l'azione di forza e si capiva che alcuni di loro stavano preparando qualcosa di concreto e forse non per la prima volta. Avevano per capo un vero duro con un formidabile nome di battaglia: Tuono. Quello sì, aveva continuato il ragazzo di Marghera a far sul serio. Altro che questi debosciati, andiamo da lui, ci sarà da fare e da divertirsi. E poi questo Mario, ma l'hai notato o no? Cacca solo teorie e dubbi, frena qualsiasi iniziativa, è come gli arbitri abbonati allo 0-0 che fischiano ogni volta che un attaccante si presenta in area di rigore, un degno capo di una manica di perditempo. Tutti studentelli montati e viziati, una cosa ridicola. Se si discrimina il lavoratore, che senso ha discutere di rivoluzione? Ci eravamo dati appuntamento a Mestre per il martedì. All'inizio della serata, in effetti, Mario aveva fatto molto il pompiere, più di quanto già non facesse da alcune settimane, nel tentativo di smorzare o almeno tenere sotto controllo una febbre violenta che, sebbene ancora minoritaria e assai astratta, minacciava di contagiare rapidamente tutto il gruppo. Ad un certo momento la discussione si era fatta litigiosa e intollerante e Mario, con un moto di rassegnato fastidio, si era messo in disparte. Aveva ascoltato in silenzio gli interventi, compreso il mio, tanto assorto che si poteva anche supporre che non sentisse affatto quanto veniva detto. A me non era piaciuto quel suo atteggiamento, che avevo giudicato presuntuoso e insofferente. Me ne sarei pentito. Contrariamente al solito, lui, che faceva in modo di essere sempre l'ultimo ad andarsene, ad un certo momento, dopo che la discussione si era rotta definitivamente, lo si era visto alzarsi, infilarsi l'eschimo e tutto solo uscire senza un'occhiata per nessuno, neppure un saluto, tanto che ci si aspettava che tornasse entro qualche minuto. Ma non tornò e tutti ce ne andammo senza più rivederlo vivo, perché era andato direttamente a buttarsi sotto il treno. L'ho saputo la mattina seguente, me l'ha telefonato Fiorenza. Così sono finite le riunioni del gruppo di Mario e non sono più andato neppure a quelle del gruppo di Tuono. Ed ora passiamo alla seconda canzone. Bomba non bomba, di Antonello Venditti. Partirono in due ed erano abbastanza. Siamo forte una chitarra e molta fantasia. E poi Bologna che studiò la prima bomba. Tra una festa e una pianina di periferia. Ma bomba non vola, noi arriveremo a Roma. Ma che voi, a stesso Marconi, incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dicemmo via di dolce sarà. copilato ci venne incontro un bacio. Lo sguardo profondo e un tozzo del santo ci disse: ragazzi in campana qui non vi lasceranno passare. Hanno chiamato la polizia davanti. Ma bomba non bomba, noi arriveremo a Roma. Ma che lavoro, speranza della mia da un intellettuale. La faccia giusta e tutto quanto il resto ci disse: no, compagna di Dio, ti s'approvo e passo. Ma l'analisia poi e poi nel sollevento. Ma bomba, bomba, noi arriveremo a Roma. Orchestra poi ci fu l'apoteosi. Il sindaco la banda e le bandiere in mano ci dissero: l'autostrada è bloccata qui, non mi lasceranno passare. Ma c'è ben chiaro che noi, noi siamo tutti con voi. Bomba o bomba, voi arriverete a Roma, a Roma. Insieme a noi, insieme a noi. La gente ci amava e questo è l'importante. Regalammo cioccolate e sigarette vere. Bevemmo poi del vino rosso dalle mani unite. E finalmente ci fecero cantare. Ed eccoci di nuovo in studio per proseguire il nostro racconto con il nostro editore. Abbiamo sentito nell'episodio letto in precedenza che Lorenzo ha terminato la sua, diciamo, attività con un gruppo di sinistra per un fatto tragico che ha portato al suicidio del leader di quel gruppo. Ovviamente è entrato in crisi una volta resosi conto che le sue teorie stavano portando quei giovani alla scelta dell'uso della violenza. Che cosa succede a Lorenzo? Lorenzo era un giovane appunto di provincia, precisamente veniva da Padova, quindi una città veneta, e aveva terminato i suoi studi e lavorava a Milano. Faceva un po' il pendolare, come succedeva a molti giovani in quel tempo, a molti giovani veneti. A causa di una, come possiamo chiamarla, una vicenda sfortunata che gli era capitata a Milano, lui aveva timore di dover subire delle conseguenze anche giudiziarie, per cui tramite una sua vecchia amica aveva trovato protezione da parte di un personaggio un po' equivoco, ma capace effettivamente di assicurare una protezione contro eventi del genere che Lorenzo temeva. Questo personaggio si chiama Alessio e nella prossima lettura assistiamo ad un sostanziale reclutamento di Lorenzo da parte di Alessio, il quale è, come si vedrà poi, a capo di un'organizzazione che si dedica a parole alla prevenzione dei reati terroristici, ma nella realtà, a quanto sembra, si dedica all'organizzazione di questi atti. calma, calma Lorenzo, siamo tra amici, no? Persone responsabili, ecco quello che intendo, un'organizzazione di persone responsabili che lavorano concretamente per proteggere te e tutti noi, per iniettare in questo stato gli anticorpi di cui ha estrema necessità. Calma, invocava Alessio, non ce n'era bisogno. La mia ribellione era già finita, ma diffidavo di lui e temevo il punto di arrivo delle sue logiche esasperate. Alessio taceva, mi stava però solo concedendo una tregua prima di assestarmi il colpo finale. Quando ha ricominciato, il suo tono era pacato, comprensivo e solidale, e di solidarietà e comprensione avevo sicuramente bisogno, anche se non certo da lui, visto quanto mi stava dicendo. Mi ha chiarito quello che secondo lui io sono, e lo riporto qui per onestà, senza alcun commento di mio: solitario, individualista, ambizioso, frustrato, ansioso, insoddisfatto, scettico per forza, autoestimatore non dichiarato, cultore di estraneità, alibista ed equilibrista della coscienza, inerte in ebollizione, autodrogato, prigioniero dello specchio, fuggiasco, privo di sentimenti ma incatenato dalle emozioni, affondato nelle sabbie mobili della passività, privo di riferimenti vitali, smarrito negli occhi e nella mente. Uno che ha bisogno del buio per non vedersi mentre si infila in buchi immondi alla ricerca di quelle emozioni che le sue catene gli innegano alla luce del giorno. Ero stupefatto, non per la sua rozzezza, della quale non erano mancati indizi pesanti fin dall'inizio, ma perché ogni suo giudizio trovava dentro di me qualche riscontro, qualche riconoscimento di esattezza e, strana sensazione, mi sentivo alleggerito come da ragazzino, dopo essermi, operazione penosa ma provvidenziale, scaricato delle mie piccole colpe rivelandole al confessore oltre la grata. Non la prendessi come un'interferenza nel mio privato, così Alessio insisteva, no, mai si sarebbe permesso. Intendeva solo farmi capire che lui e i suoi amici erano persone informate, preparate, organizzate. Con loro non mi sarei trovato male. Capiva. Sapeva che avevo bisogno di tempo per riflettere, ma si augurava che la prossima volta avrei riconosciuto la bontà delle sue ragioni. Abbiamo sentito questo colloquio che determina l'iniziazione di Lorenzo verso il supporto ad un'attività che lo porterà a fatti molto gravi. Questo colloquio avviene nella primavera del 69. In quell'anno, come abbiamo detto all'inizio, l'Italia è percorsa da sommovimenti molto importanti. Il movimento studentesco è attivissimo, occupazioni di università, di licei, dimostrazioni nelle piazze. Il movimento sindacale, per parte sua, partecipa a questa, chiamiamola, ondata di dimostrazioni e di rivendicazioni, e si avvia rapidamente verso l'autunno, il famoso autunno caldo. In autunno Lorenzo è a Milano e assiste nel novembre del 69, assiste ai gravi disordini che sono rimasti noti come gli scontri di Via Larga a Milano. Ecco una breve lettura nella quale Lorenzo commenta quello che ha appena visto. La vera ragione delle lacrime l'ho presa dal telegiornale della sera e si chiamava Antonio Annarumma, anni 22, poliziotto. Di fronte alle immagini della mischia passate e ripassate in TV, come anche in precedenza di fronte alla mischia reale, non sono riuscito a darne una valutazione. Forse è questa la rivoluzione, quella che all'infinito abbiamo teorizzato noi del gruppo di Mario e le centinaia di altri gruppi sparsi nelle città. Forse è così, senza che i protagonisti se ne rendano conto, che le rivoluzioni cominciano. Un piccolo inizio, in fondo, solo un morto e due o tre ore di combattimenti sconclusionati, poi tutti a casa a guardare in TV l'effetto che fa. Onestamente, se rifletto sulla violenza per la quale mi sono più volte dichiarato pronto, devo ammettere che nella mia inesperienza quasi assoluta me la figuravo diversa, meno affollata, meno caotica, più geometrica e più immediata nella trasparente identificazione delle parti contrapposte. Invece mi pare di aver assistito a una confusione di ruoli inquietante e perfino imbarazzante. Alla fine di questo primo atto rivoluzionario, infatti, si conta un eroe soltanto, dalla parte sbagliata. Ecco, questo è questa è l'impressione di Lorenzo, dopo aver assistito a un episodio tra i più gravi che siano accaduti a Milano in quel tempo. La vita, oltre che di episodi pubblici, è fatta anche di episodi privati, di comportamenti privati. E ci sono nella vita di ognuno sogni, desideri, amori che lasciano traccia. Le caratteristiche psicologiche e culturali di Lorenzo rendono tormentati e fondamentalmente infelici i suoi rapporti con il mondo femminile. Anche questo contribuisce ad alimentare la sua rabbia contro la società e le sue regole. Sono passate nella vita di Lorenzo e passeranno nella vita di Lorenzo parecchie donne importanti. Cito soltanto dei nomi: Angela, Margherita, Gemma e altre. Nel frattempo, i fatti scorrono inesorabilmente e si preparano gli eventi più gravi. Arriviamo al 12 dicembre del 1969. Lorenzo racconta quello che in quella giornata fatidica gli tocca come ruolo. La borsa l'ho ben stretta nella destra. Le istruzioni di Gianni, anche stavolta, sono di trattarla con cautela. Mi sembra più pesante, a meno che non sia effetto della mia febbre. La foschia di stamattina si è alzata, ma in cielo non vi è di meglio che un biancore cereo. A dispetto dei due maglioni che indosso sotto il cappotto, mi sento percorrere da brividi che non promettono niente di buono. Filo quasi a passo di corsa sui marciapiedi meno frequentati, non guardo in faccia nessuno, avanzo a testa bassa, come usavo fare davanti alle massaie nei miei ritorni da scuola. Noto che le mie scarpe, lucidate appena ieri, sembrano avanzare, autonome e aprirmi la strada. Sui marciapiedi di via Cavour la gente è più fitta, fra poco sbuco in piazza Scala. E penso che l'unica volta in cui ci sono entrato nel teatro ha segnato ormai molti mesi fa l'inizio di questa vicenda. Attenzione, imbecille! È a me che impreco. Ho mancato di un niente lo scontro della mia borsa con un'enorme valigia. Camminare a testa china non va bene, non è mai andato bene. Sulla testa allora. Sole pallido adesso in alto sulle facciate alla mia sinistra. Sempre più gente, la galleria ne è zeppa, sebbene non sia ancora l'ora del passeggio. Colombi mi attorniano all'uscita di Piazza Duomo. Alzo gli occhi alla marmorea facciata che dal cielo latteo sembra intenzionata a crollarmi addosso. Un profumo intenso mi richiama a livello terra. Mi ha sfiorato. Era bellissima. La voglio ricordare. Da qualche zona lontana urla una sirena. Laggiù in fondo è il luogo dell'appuntamento. Ce l'ho quasi fatta. Un tonfo soffocato mi sorprende e mi gela in mezzo alla piazza. Un rombo sotterraneo sale dalla profondità fino a scuotere il selciato. Non sono il solo ad averlo udito. Altri si guardano intorno tentando di capire. Al semaforo pedonale di fronte al commercio il verde si è spento di colpo, mettendo a rischio l'incolumità della traversata. E si è creata qualche confusione perché la gente stenta a rimettersi in movimento. Grava sulla piazza un silenzio irreale. Io, alle coincidenze, già l'ho detto, non ci credo. Ho capito che ormai è inutile arrivare al luogo dell'appuntamento, che d'altronde è vicinissimo, addirittura visibile da qui, dal punto in cui sono fermo, pietrificato. Lo vedo, quell'angolo al quale ci dovevamo incontrare. La borsa mi pesa. Gente comincia a correre verso quella direzione, verso il luogo del mio appuntamento fallito. Alcuni vigili attraversano la piazza e anch'essi corrono. Altri cominciano appena a muoversi dopo la lunga immobilità. Tutti si dirigono laggiù. Bisogna andare. Mi sposto verso il margine della piazza. Da qui posso vedere fino in fondo, dove si è levata in aria una nuvola grigia e dove corre la gente. Io invece me ne vado in direzione opposta, verso Cordusio, mentre un concerto di sirene spiegate sta avvicinandosi, provenendo da varie zone della città. E qui ci fermiamo per un'altra canzone, che è Vedrai, vedrai, di Luigi Tenco. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare, tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai. Non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai. No, non son finito, sai, non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà. Eccoci di nuovo in studio per un'altra tranche di questo racconto straordinario. Avete sentito il racconto di Lorenzo, che riporta anche con crudezza, ma direi con onestà, quello che è stato il suo ruolo nella giornata di Piazza Fontana. Lui aveva un appuntamento e l'appuntamento è mancato. Vedremo chi leggerà il libro, vedrà perché e cosa è successo e così via. Intanto, da questo punto in poi al romanzo, gli eventi accelerano, nel senso che il tempo passa più rapidamente. Lorenzo sostanzialmente rimuove l'episodio di Piazza Fontana e non sto a raccontare molto i dettagli, ma nei successivi 10 anni circa Lorenzo riesce a formarsi una piccola famiglia, sposa una ragazza di nome Gemma, tra l'altro di origini parzialmente africane, e nascono 2 bambine e sembra che la vita di Lorenzo si sia stabilizzata. Il diario riparte dal 1980, nell'agosto, il 2 di agosto, Lorenzo sente naturalmente, viene a conoscenza di quello che è accaduto a Bologna, la strage alla stazione. Questo episodio così tragico risveglia in lui il senso e il desiderio di rovesciamento totale della società. la società che comprende anche la sua piccola famiglia. E questo senso di rovesciamento e desiderio di modificare radicalmente le cose porterà Lorenzo in altre direzioni e influirà sulla vita della sua famiglia in modo drammatico. Dal primo di agosto siamo qui e trascorriamo le giornate in tranquillità. Voglio dire che portiamo ogni giorno le bambine nei boschi e sui prati. Spesso andiamo ai prati di Sara, così vasti e dolci e caldi, da indurci a lunghi picnic, seguiti talvolta addirittura da una siesta di gruppo dell'intera famigliola sotto il sole pomeridiano. Ma fin dal giorno successivo al nostro arrivo, la notizia della bomba di Bologna ha risvegliato in me qualcosa, come se avessi riaperto una porta per sempre, che per sempre avevo a torto, creduto si fosse automaticamente sbarrata dopo la visita di Alessio al nostro appartamento di Lambrate. Ne sono stupito io per primo, perché in tutti questi anni mi ero scrollato di dosso notizie di quella medesima o analoga matrice, come se la mia mente e la mia memoria fossero ormai ricoperte di una vernice repulsiva e non degradabile, ed erano scivolati via su di essa senza lasciare traccia i fatti della questura di Milano, Piazza della Loggia, l'Italicus e poi lo stillicidio di nomi e sigle come Sossi, Coco, BR, Curcio, Alasia, Tuti, Ramelli, Napp, Nar, Prima Linea, Occorsio e innumerevoli altri fino al colpo di teatro di via Fani e via Caetani e poi ancora Rossa, Bachelet e Tobagi. Perfino la notizia della condanna di Freda e Ventura mi aveva lasciato indifferente. È stata Bologna a scalfire quella corazza traslucida e dall'incisione, trasformatasi ormai già in lacerazione, sta entrando in me un vento ad ogni minuto più tempestoso. Lorenzo ha quindi ripreso la strada interiore che aveva intrapreso prima di Piazza Fontana e poi abbandonata per una decina d'anni. Negli anni successivi a questo, chiamiamolo, risveglio della sua coscienza, chiamiamola coscienza radicale, lui provvede a modificare la sua vita. La sua famiglia sostanzialmente ne viene disgregata. Passano alcuni anni e arriviamo al 1984. Nel 1984, il 12 di dicembre, cade il 15° anniversario della bomba di Piazza Fontana e la celebrazione che si svolge a Piazza Fontana a Milano vede la presenza di Lorenzo, il quale, una volta terminata la cerimonia, mentre ritorna verso casa, matura una serie di riflessioni che formeranno una certa logica che lo guiderà negli anni successivi. Ecco dunque che, superato l'angolo del pellicciaio, assorbo l'inaspettato calore e ricevo il simultaneo dono di una logica da percorrere con semplicità e sicurezza. Non è vero che l'uomo nasca buono e solidale. Lo si vede benissimo che possiede semplicemente certe abilità di tecnica affettiva e di volta in volta esercita quella che più gli conviene. La morale autentica è quella del vantaggio. Il massimo bene è quello che porta alla massima gratificazione. Le prime motivazioni umane sono strettamente individualiste e fin dall'inizio si innesca il conflitto tra ricerca del benessere individuale e le esigenze della convivenza, tra libertà e socialità, tra individuo e società. Conflitto sempre curato e risolto da quest'ultima, corpaccio potente, cresciuto a dismisura, nutrito dalle paure primordiali della solitudine e dell'abbandono e ormai fuori controllo, con dosi massicce di repressione e di conversione forzata al solidarismo. Ma non siamo quel che si vuole farci credere. Non siamo innocenti, né come individui né come masse, siano esse disciplinate da dottrine religiose o politiche o di altra natura. Siamo, pur avendone forse ormai scarsa coscienza, canaglie sociali. Ed ora passiamo all'ultima canzone, all'ultimo brano, che è una tra solo due strofe di Don Chisciotte di Francesco Guccini. Mm.

Di quanto accadde martedì 27 luglio racconterò in fretta e per necessità, essendomi reso conto, dopo settimane di macerazione silenziosa, che si tratta del solo strumento a mia disposizione per rendere un minimo di giustizia a me stesso. Arrivai a Viareggio poco prima di mezzogiorno, dopo aver viaggiato in auto per la seconda parte della notte, accompagnato dalla mia guida, e in autobus da Grosseto in poi. Con un taxi andai subito all'indirizzo di Sandra. Si trattava di una casuccia minuscola ma graziosa, cui si accedeva da un giardinetto incastrato tra due condomini. Mi venne ad aprire Sandra. Margherita non era in casa. Di solito a quell'ora, disse, quando la gente rientrava, se ne andava a passeggio sulla diga, che non era lontana. La giornata era ventosa, limpida, rovente. Mentre percorrevo a lunghi passi il nastro di cemento e colavo sudori per il sole a picco, avanzavo con energia, leggero, rigenerato. Mi ero spogliato e mi beavo di sentire la vampara della pelle e di inalare a pieni polmoni l'aria fine che proveniva dal mare aperto. La diga si perdeva nel riverbero solare, così che mi ci trovai vicino d'improvviso e quasi non la riconobbi, tanto il mare l'aveva fatta scura di pelle e chiara di capelli. Sedeva sul bordo di cemento sopra un asciugamano fiorito, ad occhi chiusi, il viso sollevato verso il sole. Mi sedetti accanto e le presi delicatamente una mano. Di certo m'aveva visto arrivare, perché non diede segno di sorpresa. L'incontro fu diverso da quanto avevo immaginato e dato imprudentemente ormai per scontato. Quasi subito mi resi conto che lei non era più interessata ad aprire la porta del futuro insieme a me, ma semmai mi concedeva l'opportunità di chiudere ragionevolmente quella sul passato. Tutte le mie faticose riflessioni andarono al vento, i miei propositi a pezzi, le mie idee e le mie energie, oltre che la mia azione romana, condotta, si può dire, all'unico scopo di fornire a lei una prova non dubitabile di intima solidarietà, ne furono rapidamente travolte e disperse, insieme con la mia lucidità. Di quella solidarietà Margherita non sapeva che farsene. Magari tempo addietro l'avrebbe apprezzata, ma ora... Mentre mi liquidava, stava ben attenta a mantenere un tono pacato, a non offendermi e contemporaneamente a non concedermi alcun appiglio per opporre resistenza. Mi sentivo del tutto disarmato, destinato all'ignoto, e rividi in me Angela, da me rinnegata e abbandonata dentro alla sua stessa casa, anche lei trattata come un pacco da spedire via al più presto, il più lontano possibile. Angela poi aveva tentato di opporsi, di richiamare indietro il tempo. Io non l'avrei fatto. «Perché è tutto finito?» domandai. «Le vicende vanno tutte sempre ad una fine», rispose. Ecco, abbiamo sentito che c'è anche una vita sentimentale di Lorenzo. C'era stata anche in precedenza, avete sentito che ha citato Angela, una donna pure molto importante nella sua vita, tanto è vero che nel corso del romanzo ritornano una certa cadenza dei ricordi del suo rapporto con Angela e di quello che ne è seguito, che pure ha contribuito a formare e a creare alla interiorità di Lorenzo una serie di problematiche e di tormenti. Andiamo verso la fine del romanzo, siamo ormai all'epilogo e lo leggiamo anche perché ci spiega qual è l'origine di questo diario, richiamando lo slam di una porta di cui abbiamo letto nella prima lettura. 3 settembre 1998, giovedì. Era evidente che cercava la lite e quella ha avuto. Sono volate parole poco gentili, come in tutte le liti, e la conclusione non poteva che essere di raffinata eleganza da parte sua. Rientrando dal bagno, postazione dalla quale non mi aveva risparmiato, come consuetudine, i suoi eccessivi strepiti corporali, e infilandosi sopra il corpaccione una vestaglia color tarocco siciliano, «Senti, Cocco», m'ha detto, «qui chi tira la carretta sono solo io, che mi faccio tutte le sante notti a quei maledetti biliardi, mentre tu te ne stai sotto le coperte a fare chissà che, e se invece qualcosa sai fare, non hai che da dimostrarlo». Detto questo, si è diretta alla porta, ma subito, come pentita, si è rigirata indietro e una nuova sigaretta pendula dal labbro inferiore, mugolando, mi ha canticchiato «Happy birthday to you», annunciando, prima di sparire, «3 settembre, tesoro, scommetto che se non te lo ricordo io, tu manco sai più fare le sottrazioni». 98 meno 42 uguale 56 e slam, è uscita. 10 dicembre 1998. Può far male uno slam così, e può fare anche bene, come un'esplosione. Fra 2 giorni sarà il 12 dicembre, 29 anni da Piazza Fontana. Il mio nuovo ordigno è pronto. Fra 2 giorni lo riceverai, mia amata. Questo è l'epilogo del romanzo. In realtà poi c'è ancora qualche pagina che è costituita dall'ultima nota manoscritta della donna a cui il manoscritto appunto fu inviato da Lorenzo. Chi sia questa donna appunto viene rivelato nelle ultime pagine, che lascio naturalmente alla vostra scoperta. Possiamo forse fare qualche breve commento di carattere generale su questo libro. Io piuttosto che farlo io di persona, che essendo l'editore sono forse anche tacciabile di conflitto di interessi, vi leggo 2 o 3 righe di una recensione apparsa su vari giornali del giornalista Franco Bottacini, in particolare di Brescia Oggi, l'Arena di Verona e così via. Ecco quanto lui dice di questo libro. Dunque, edito dalla Biblioteca dei Leoni, ha partecipato al Premio Strega, dove, dice il giornalista, merita di guadagnarsi l'attenzione della critica e dei lettori, perché è un romanzo in cui l'inquietante e scomoda materia narrativa è supportata da un impianto narrativo intelligente e da uno stile scattante che sottende la forza espressiva matura. E poi, ancora, mutuando un rimando dolorosamente noto, si potrebbe dire che nella sua tecnica letteraria Corte Moschin applica la strategia della tensione, tra virgolette, da consumato scrittore. Infatti, il libro si legge come un grande giallo d'autore, dove insieme alle tristi vicende del terrorismo si accordano episodi di vita spicciola, piccole storie che per 25 anni si sono intersecate con storie di piombo, perché anche la vita di ogni protagonista è fatta di scampoli quotidiani e familiari, di sogni e di amori che lasciano traccia. È un po' la questione del pubblico e privato, no? Che il pubblico era, esatto, privato, questa commistione che invece mi pare che non sia esattamente così come si volesse far credere. Esatto. E questo lo dice, mi pare, il protagonista. Sì, o sbaglio? In quegli anni quella commistione si è poi risolta in forme drammatiche, quando non tragiche, come abbiamo sentito. Eh sì, e questo è un argomento col quale dobbiamo fare, come dire, tutti quanti i conti. E chiaramente sapere è meglio che non giudicare a scatola chiusa, io ho l'impressione, e forse questa è la morale un pochino, certo, con il quale possiamo concludere. Avere conoscenza di quello che è accaduto è l'unica condizione per andare avanti. Perfetto. Noi ringraziamo l'editore Luigi Crivellaro e, a Dio piacendo, diamo appuntamento alla prossima domenica. Grazie. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.